corre come un lampo, corre contro il vento che non ha più scampo, e scorre, scorre il fiume come un lungo serpentone, e scorre rapido fino al mare e non lo puoi fermare. Fermati un poco a riflettere, perché niente puoi fermare, niente puoi fermare. Sbatte l'onda sugli scogli, rompe i gusci e crea la sabbia. Batte l'onda sugli scogli e lo fa con tutta la sua rabbia. Soffia piano forte, ma soffia sempre il vento. Porta via le foglie e ti porta via un lamento. Sbatte sulla nave il mare e non lo potrai fermare. Rompe i legni e sposta sabbia e ti ruba anche la spiaggia. Fermati un poco a riflettere, perché niente puoi fermare, niente puoi fermare. Perché niente puoi fermare, niente.